Raga, leggerlo io mi vergogno tantissimo. Ma io non ho capito, ma tu lo leggi e poi lo invii o lo devi leggere in diretta? Perché se lo leggo e poi lo invio potrei anche farcela, ma se lo devo leggere in diretta mi impallo 70 volte. Comunque è un amore di Buzzati ed è molto bello. Il libro in sé, ma questo pezzo secondo me, cioè epico, poteva anche scrivere solo questa pagina e fermarsi. In uno squarcio tra le case, e dietro ancora, nelle case invisibili e in più in là, nelle caligine, per chilometri e chilometri, lavoravano. Carte, registri, moduli, telefonate, quietanze, mani ingombre di penne, di arnesi, di matite, intento a una vite, a un incastro, a un'edizione, un innesto, una saldatura, un estratto conto, un fissaggio, stermino di formiche frenetiche, assetate di benessere, eppure il loro pensiero gli veniva da ridere. Tutto intorno per chilometri e chilometri suddetti, pensieri simili ai suoi, sconci e squisiti. Per la misteriosa voce che chiama la propagazione della specie, trasumanata in vizi strani e brucianti. Perché mai nessuno aveva il coraggio di dirlo? Pensieri di lei, di quella bocca speciale, di quelle labbra fatte in un certo modo, di una prospettiva di muscoli tesi, ricordi morbidi e fluidi. In una curvatura diversa da tutte le altre, di una piega, di una pienezza, di una concavità, di un caldo, di un umido, di una cedevolezza, di uno sprofondamento, di un abisso cocente.